Salvadanaio. Da Valentina Furlanetto, buon inizio settimana dalla redazione di Salvadanaio. Molti italiani nel fine settimana che ci siamo lasciati alle spalle hanno scelto di chiudersi in casa per le temperature polari annunciate, certamente, ma anche e soprattutto per la preoccupazione dovuta ai disagi, ai pericoli che riguardano lo spostarsi, soprattutto la condizione delle infrastrutture, delle strade nel nostro paese, che con l'arrivo della neve ogni inverno, nonostante l'anticipo delle previsioni, insomma, sembra andare in tilt. Allora, i disagi sono arrivati principalmente dalle ferrovie, anche se alcune zone sono rimaste isolate per quanto riguarda l'erogazione dell'energia elettrica, ma per quanto riguarda i treni invece ci sono stati anche dei casi limite, come quello dell'Intercity 615 Bologna-Taranto, rimasto fermo, l'avrete sentito nei telegiornali, nei radiogiornali, per oltre 7 ore senza riscaldamento e acqua a causa della neve e del ghiaccio. Un episodio già sufficiente a far discutere, a cui si aggiungono tanti altri piccoli episodi di treni bloccati, in ritardo, soprattutto per i pendolari. Trenitalia ha varato un piano di rimborsi per i viaggiatori colpiti dai disagi. Si tratta di rimborsi per i ritardi e per chi ha rinunciato a mettersi in viaggio. Le associazioni dei consumatori però non sembrano affatto soddisfatte dalla risposta delle ferrovie. Si stanno già attivando con diverse iniziative, chiedendo ulteriori indennizzi, non solo la restituzione del biglietto. Ne parliamo di tutto questo e di altro ancora, facendo conto anche che ci possiate chiamare all'800 24 00 24 raccontandoci le vostre avventure, disavventure, i disagi che avete subito, e anche ovviamente potete richiedere, fare delle domande ai nostri esperti che tra poco vi presenteremo, sulla possibilità di chiedere i rimborsi, su quale sia la modalità migliore per richiederli e sugli sviluppi possibili di queste iniziative. Siete state ad esempio vittime di ritardi e disagi dovuti al gelo di questi giorni, come il nostro bravissimo collega in redazione Marco Lombardo, che venerdì ha avuto dei problemi ad andare a Torino? Avete subito delle situazioni di disagio causate invece dallo stop alle forniture di energia elettrica, per quanto riguarda invece gli spostamenti con gli aerei, che però sappiamo sono stati in questo senso, hanno avuto un esito più positivo? Raccontatecelo allora via sms al 349 238 6666, sulla pagina Facebook di Salvadanaio, www.facebook.com/salvadanaio, oppure appunto chiamateci 800 24 00 24. Ne parliamo con i nostri ospiti, anche voi potete fare riferimento a loro se avete delle domande tecniche. L'avvocato Giovanni Ferrari, presidente dell'associazione Casa del Consumatore, buongiorno. Buongiorno. Grazie per essere con noi stamattina. E a Mario Finzi, presidente associazione Asso Utenti, buongiorno anche a lei. Buongiorno a tutti. Ecco, devo dire che abbiamo provato a invitare, ad avere in trasmissione anche un rappresentante di Trenitalia, non ci siamo riusciti, sono molto impegnati e non lo dubitiamo, perché la situazione è critica in tutta Italia per quanto riguarda appunto, come dicevamo, i trasporti. Comunque insomma non li abbiamo in diretta, ma sappiamo che Trenitalia ha fornito come dicevamo una risposta, un piano di rimborsi, c'è anche sul sito, potete avere qualche informazione, ora vedremo quanto completa. Prima di parlare di tutto questo con voi e con i nostri ospiti, diamo uno sguardo ancora alle borse. Come abbiamo visto anche durante il GR, sono un po' tutte deboli le borse in Europa questa mattina, in attesa appunto di ciò che verrà fuori dal Consiglio franco-tedesco riguardo alle sorti della Grecia. Nel weekend non c'è stato nessun esito positivo per l'accordo sul debito greco. La Grecia, lo ricordiamo, rischia il fallimento e quindi c'è una forte preoccupazione per l'esito di questo vertice di oggi. Intanto Parigi è la peggiore, meno 1,05%, Francoforte meno 0,55% in questo istante, Londra meno 0,31%, anche a Milano le cose non vanno bene, FTSE MIB meno 0,64%, FTSE Italy Share meno 0,49%. Fra le buone notizie è quella che lo spread fra BTP e Bund è tornato a scendere sotto i 380 punti base, a 375, dopo essere risalito fin sopra quota 390. E per quanto riguarda invece i titoli sul listino principale milanese, segnaliamo il forte rialzo del Banco Popolare, più 3,67% in questo istante. La banca ha annunciato l'invito al riacquisto anticipato di obbligazioni per 4 miliardi di euro nominali. Monte dei Paschi segue a ruota, più 3,21, e poi invece sono più deboli gli altri titoli, e fra i bassi più forti, più consistenti, segnaliamo Buzzi Unicem, meno 3,89, il taglio hold di Banca Akros pesa sul titolo. Italcementi, Buzzi Unicem, Italcementi, che venerdì a mercati chiusi ha annunciato ricavi in crescita per il 2011, oggi è in calo a Piazza Affari, appunto. Fiat Industrial meno 3,69, secondo peggior titolo, anche Fiat invece meno 2,02%, in questo caso l'agenzia di rating Standard & Poor's ha messo i rating BB di lungo termine di Fiat e quello BB sul suo debito senior unsecured sotto osservazione con possibili implicazioni negative. L'agenzia ha puntato l'indice sulla situazione difficile dei mercati, in particolare europei. Non si ferma invece il rally dei titoli coinvolti nel riassetto del gruppo Ligresti, finiti tutti in asta di volatilità. Per quanto riguarda l'euro è a 1,3054 sul dollaro in questo istante. Chiudiamo così la nostra pagina borsistica sui mercati finanziari per tornare al tema di oggi, che è quello del maltempo, ma in particolare dei rimborsi dovuti a chi ha subito dei disagi per quanto riguarda il maltempo. Per capire qualcosa di più sentiamo la scheda che è stata redatta dalla nostra redazione. Temperature polari, neve, ghiaccio, scuole chiuse e soprattutto trasporti in tilt. L'inverno sembra aver colto di sorpresa il bel paese, causando non pochi disagi, in particolare a chi, per muoversi su tratte più o meno lunghe, si affida alla rete ferroviaria. Sono state molte negli ultimi giorni le difficoltà dei treni, con ritardi, guasti sulla tratta e convogli bloccati anche per molto tempo, fino al caso limite. L'odissea dei passeggeri del treno Intercity 615 Bologna-Taranto, rimasto fermo per oltre 7 ore senza riscaldamento e acqua nelle campagne tra Forlì e Cesena a causa del ghiaccio. Le ferrovie hanno già varato un piano di rimborsi per i viaggiatori colpiti dai disagi. È stato previsto il rimborso integrale del biglietto per chi, visto il maltempo, ha rinunciato a mettersi in viaggio dopo aver comprato il biglietto, e indennizzi di diverse entità per i ritardi. Un quarto del biglietto potrà essere restituito a chi ha subito ritardi tra i 60 e i 119 minuti, il 50% tra i 120 e i 239 minuti e l'intera somma per chi ha dovuto aspettare più di 4 ore. Una soluzione che non ha per niente convinto le associazioni dei consumatori, che sono arrivate a definirla ridicola, puntando il dito, oltre che sugli enormi ritardi, sui problemi strutturali di malfunzionamento delle infrastrutture, di cui sono vittime ogni giorno i pendolari, e che avvengono nonostante episodi di maltempo come questi siano previsti con largo anticipo. Tutti i motivi per i quali, secondo le associazioni che promettono battaglia, il rimborso del biglietto non è sufficiente, ma andrà integrato con il risarcimento degli ulteriori danni subiti dai viaggiatori. Avete sentito un riassunto dei disagi ma anche dei tipi di rimborsi che si possono ottenere. Dicevamo molti servizi pubblici toccati dall'emergenza neve. Si è salvato in pratica solo il settore aereo, dove sono state prese precauzioni sostanzialmente efficaci. La riduzione dei servizi è stata contenuta. Molti problemi l'avete sentito da parte di chi doveva viaggiare in treno. Mi dicevano adesso durante la messa in onda della scheda che anche delle nostre centraliniste, insomma, anche qui ci sono stati dei problemi per gli spostamenti dei lavoratori di Radio 24, come immagino per molti di voi, che possono chiamare all'800 24 00 24. Abbiamo con noi alcuni ospiti per capire se sono sufficienti le rassicurazioni di Trenitalia per quanto riguarda i rimborsi dei viaggiatori. Avvocato Giovanni Ferrari, presidente dell'associazione Casa del Consumatore, mi pare di capire che voi non siate soddisfatti di ciò che è stato detto finora da Trenitalia. Diciamo che Trenitalia ha semplicemente comunicato quella che è la normale indennità che viene riconosciuta in caso di ritardo nell'arrivo del treno, che è appunto del 25%, del 50% del prezzo del biglietto, del 100% come avete giustamente evidenziato nella scheda, non c'è nulla di nuovo, queste sono le indennità che Trenitalia dà ordinariamente nel caso dei ritardi. Quello che si accusa in questo caso è una inefficienza e il caso limite di quel treno che avete citato, la carenza di assistenza, cui pure sarebbe tenuta Trenitalia in base al contratto che ha con i viaggiatori, che è un contratto molto particolare, perché poi Trenitalia accede a finanziamenti statali, finanziamenti regionali, per cui è un obbligo che Trenitalia assume nei confronti degli utenti, ma anche della nazione, diciamo, e di chi finanzia le attività di Trenitalia. Erano ampiamente previste queste condizioni meteo avverse, si presentano un po' ormai tutti gli anni, non è più una stranezza che in Italia succeda questo, e per cui sia le pubbliche amministrazioni che chi si occupa di trasporti dovrebbe incominciare a prevederlo come un caso normale a cui si deve far fronte, per cui questi indennizzi offerti da Trenitalia sono sicuramente dovuti, quindi questa è un'offerta, diciamo, corretta, però non soddisfa quello che è il rimborso dei disagi patiti dalle persone. Ecco perché noi abbiamo chiesto di incontrare Trenitalia, vedere se bonariamente verrà poi offerto qualche cosa di più anche a ristorare degli indennizzi e della mancata assistenza, che comprenderebbe anche dare pasti, bevande calde, pernottamento, sistemi di trasporto alternativi, insomma cose che l'utenza viene un po' lasciata a se stessa, pur con le difficoltà oggettive che può avere Trenitalia, però ecco, lamentiamo l'assenza di questo e quindi chiediamo dei rimborsi adeguati. Mario Finzi, presidente dell'associazione Assutente, anche voi mi pare chiedete un tavolo su questo, e mi pare di capire che sottolineate anche una diversità di trattamento fra chi ha preso un treno ad alta velocità e i pendolari. Ma sicuramente questo tavolo intanto c'è stato già, diciamo, abbastanza immediatamente concesso. Nei prossimi giorni speriamo di poter essere più precisi, ma noi dobbiamo lamentare il fatto che mi sembra inspiegabile da un punto di vista metodologico e meteorologico che l'alta velocità ha funzionato quasi integralmente mentre il trasporto regionale è stato abbandonato immediatamente a se stesso, siccome la neve cade sia sui binari dei treni ad alta velocità che sugli altri, e sembra che ci sia una scelta aziendale che questa volta mi sembra particolarmente vergognosa, di concentrare tutte le risorse per far viaggiare i treni redditizi e penalizzare invece quelli del servizio universale, quelli dei pendolari, degli studenti, di chi abita nei piccoli centri. Peccato non avere Trenitalia che le possa rispondere in questo istante. Bentornati e bentornati a Salvadanaio. Oggi parliamo dei rimborsi per chi ha subito dei disagi a causa del maltempo, della neve, del ghiaccio, che ha dovuto spostarsi per lavoro o altro e ha subito dei forti ritardi magari spostandosi con i treni, oppure anche per qualche altro motivo, settore aereo invece che l'energia elettrica, quindi la mancanza di erogazione di energia elettrica. Leggevo poco fa che il presidente della provincia di Siena, ad esempio, ha chiesto a Enel indennizzi per i cittadini e rimborsi spesi per l'amministrazione pubblica a causa proprio dei distacchi causati dal maltempo di questi giorni. Ma parlavamo con il presidente dell'associazione Assutenti, Mario Finzi, di Trenitalia, delle ferrovie, dei problemi che ci sono stati nei giorni scorsi. Lei parlava di una scelta aziendale o almeno di un'ipotesi che possa essere stata una scelta aziendale, quella di potenziare o di comunque permettere ai treni di alta velocità di funzionare quasi integralmente in questi giorni. Invece sembra che la rete sulla quale pesano i trasporti dei pendolari non abbia funzionato così bene, addirittura una scelta aziendale. Ma guardi, questo naturalmente è un sospetto che nasce dalla considerazione di quello che è accaduto, cioè del fatto che i treni ad alta velocità hanno camminato e gli altri no. Se ci sono scelte di questo genere, io spero che venga accertato, e anzi io richiamo le regioni innanzitutto, lo Stato stesso, che hanno i contratti con con Ferrovie dello Stato, affinché faccia degli accertamenti su questo, eventualmente interessando anche la magistratura. Io voglio ricordare che Ferrovie dello Stato ha dei contratti con lo Stato e con le regioni per molti milioni di euro per garantire il diritto dei cittadini alla mobilità, per garantire i servizi essenziali, e questi vengono prima dei servizi a mercato, mentre invece sembra che questa non sia stata la scelta dell'azienda. Ecco, noi stiamo anche valutando se non si configuri un reato di interruzione di pubblico servizio da questo punto di vista. Diamo spazio anche agli ascoltatori che ci stanno chiamando all'800 24 00 24 per raccontare la loro esperienza, come Maura dalla provincia di Macerata. Buongiorno. Buongiorno. Anche lei vittima dei ritardi, sì, o dei disagi dovuti al maltempo? Allora, praticamente io ho richiesto il rimborso del mio biglietto Civitanova Bologna e praticamente non mi è stato accettato. Si tratta, il giorno 3 febbraio, quindi venerdì, quindi all'inizio dell'emergenza, avevo questo biglietto da Civitanova Marche a Bologna e l'orario di partenza era di mattina presto alle 6:32. E naturalmente io non mi sono messa più in viaggio, viste le notizie che arrivavano, e mi sono presentata in biglietteria lo stesso giorno, 3 appunto febbraio, e naturalmente non alle 6:32 perché comunque le biglietterie sono chiuse a quell'ora, più tardi in mattinata, sì, e mi è stato detto che comunque il treno era partito, era arrivato a destinazione, e quindi io non avevo diritto a nessun rimborso e soprattutto mi sarei dovuta presentare all'ora del biglietto alle 6:32 in stazione, e perché così più tardi non sarebbe stato più valido, diciamo, il mio reclamo. Ho capito. Comunque niente, non mi è stato accettato questo rimborso di 23, perché avrebbe dovuto andare 50. Prima delle 6:32, sì, diciamo, teoricamente. La biglietteria è chiusa a quell'ora, certo. Ti faccio il mio reclamo. Grazie Maura, grazie. Giovanni Ferrari, questo in effetti è uno dei casi che si possono incontrare. Beh, questo diciamo che ci conferma che nella pratica lo strappo alla regola che Trenitalia dichiara di voler fare per tutti coloro che hanno rinunciato, direi intelligentemente, a spostarsi, perché poi quello che tutti noi dobbiamo fare, se possiamo evitare di spostarci in certi frangenti, facciamo bene a non farlo. Quindi la signora si è comportata correttamente, era assurdo che andasse alle 6:30 del mattino in stazione. Una regola generale sarebbe stata ovviamente che non avrebbe avuto diritto al rimborso, perché non poteva prevedere, diciamo, se poi sarebbe partito o meno il treno, però visto quello che ha dichiarato Trenitalia, la signora dovrebbe avere diritto a questo rimborso. E sembra invece di capire che le abbiano detto, almeno allo sportello, da quanto capiamo, di no. Giovanni Ferrari, per quanto riguarda le class action, se ne parla molto, è uno strumento, è una via che possono percorrere i nostri ascoltatori? Ma insomma, in questo caso è un pochettino da vedere, perché la class action prevede, adesso l'ultimo intervento correttivo del governo è stato un po' ad ammorbidire quello che prima era un'identità assoluta di situazioni, per cui ci figuri se proponessimo una class action per tutti i danneggiati genericamente da questo evento, chiaramente ci verrebbe respinta, perché ognuno ha una storia a sé, un ritardo a sé, una specificità e dei danni personali anche diversi. L'ultima manovra del governo ha migliorato, anche se è ancora adesso subiudice da parte del Parlamento, prevedendo una omogeneità di diritti, quindi non più una vera e propria identità, però ecco, al di là di magari farlo per lo specifico treno, la specifica situazione, la class action non sembra la via migliore, quindi ecco perché c'è l'esigenza di incontrare Trenitalia, vedere se si riesce, senza fare azioni, a far avere un equo indennizzo alle persone. Diversamente è possibile fare azioni collettive, cioè una pluralità di persone propongono un'azione oppure tante azioni individuali. La class action è più da valutare perché è un po' più difficile in casi come questo. Mario Finzi, a lei giravo invece un'altra domanda. Mi pare che una delle lamentele che sorge più spesso è quella di una mancata comunicazione all'utenza o anche di una comunicazione che in certe parti è fallita. Il sito di Trenitalia certamente annuncia partenze in ritardo, ma all'inizio venerdì annunciava anche molti treni in orario. Beh, lì c'è un servizio che si chiama Viaggia Treno, normalmente molto utile per sapere come stanno andando le comunicazioni, cioè i treni, come stanno viaggiando i treni, ma nella fattispecie i viaggiatori che aspettavano nelle stazioni, peraltro in presenziale ce ne sono oltre 1600, dove non c'è nemmeno una persona a cui chiedere un'informazione, stavano a quello che dicevano gli altoparlanti, cioè un quarto o forse un decimo di quello che stava succedendo. Rivolgendosi invece, ricercando sul sito web, risultavano in orario tutti i treni che ancora dovevano partire, non c'era scritto che erano cancellati, quindi molta gente è andata alla stazione pensando che il prossimo treno sarebbe partito in orario, hanno anche obliterato il biglietto e poi hanno scoperto che quei treni erano stati non cancellati ma non erano mai partiti. Ecco, quindi c'è stata proprio una, diciamo, non solo una mancanza di informazione, ma un'informazione ingannevole. E questo mi sembra un ulteriore problema da affrontare, insomma, quello della comunicazione è stato un fallimento totale, non soltanto per la verità di Trenitalia, perché anche per esempio il trasporto urbano di Roma ha avuto lo stesso difetto gravissimo, cioè l'informazione non aveva nessuna attendibilità rispetto a quello che è successo poi effettivamente. Sentiamo cosa è accaduto a Mariella da Bergamo, buongiorno. Sì, buongiorno. Che cosa le è successo? No, non a me personalmente, a mio figlio. Sì. Il quale aveva prenotato da tempo l'aereo delle 17:30 da Roma per Londra. Sì. Alle 3 si è messo in macchina sul raccordo, ma c'era un centimetro neanche di neve. Improvvisamente si è fermato tutto, è rimasto fermo spesso anche in galleria, perché poi ci siamo sentiti fermo in macchina, quindi per vedere se potevamo prenotare altri aerei via via. Ha perso l'aereo. Mezza, l'aereo delle 7:30 perso, anche quelli successivi e anche quello delle 9 di sera. Disastro. Alle 8:30 finalmente è ripartito, ha fatto il giro, è tornato a Roma. Ecco, e ha perso quindi l'aereo e immagino voglia chiedere un rimborso per il biglietto, è questo l'interrogativo? L'interrogativo è se poteva avere qualche rimborso, perché doveva trovarsi con un collega a Londra il mattino successivo, comunque poi è ripartito il mattino dopo alle 13:30 mi grazie. Sembra nel mattino. È chiarissimo, Mariella, volevo, grazie. Ecco, sì, prego. Voleva aggiungere? No, perché aveva prenotato anche l'albergo e tutto, insomma, va bene. Comunque grazie, sento la risposta. Grazie. Io farei rispondere Giovanni Ferrari. E in questo caso è possibile avere un rimborso per il biglietto aereo, eventualmente per la prenotazione dell'albergo? Ma qua è da valutare, direi che i prossimi giorni speriamo che uscirà qualche valutazione un po' più oggettiva su quello che è successo a Roma, perché obiettivamente si è creata una situazione che io non ho vissuto, ero altrove, però insomma ne ho letto e ne ho visto, abbastanza abnorme rispetto a quello che poteva essere evitato, e per cui certo che se c'è una responsabilità da parte di chi avrebbe dovuto diversamente organizzare la viabilità, certo che si può essere chiesto un risarcimento. Siamo Stiamo parlando con voi e con i nostri esperti di rimborsi per chi è stato vittima di ritardi, di disagi causati dal maltempo. Lo stiamo facendo con Giovanni Ferrari, presidente dell'Associazione Casa del Consumatore, e con Mario Finzi, presidente dell'Associazione Asso Utenti. Quindi stiamo parlando di rappresentanti dei consumatori, dell'Associazione dei Consumatori, che ci stanno aiutando a districarci nei rimborsi che possiamo avere. Rosanna da Brescia ci ha scritto via email. Rosanna è una pendolare, evidentemente, che ogni giorno da Brescia viene a Milano per lavoro, ha un abbonamento mensile pagato ovviamente in anticipo e chiede: il treno non era disponibile, mi pare di capire il 2 febbraio, se non sbaglio dalla mail, non era disponibile, come mi devo comportare? Esiste un sistema via mail per inoltrare le richieste senza dover perdere tempo in biglietteria? Questo in effetti è un problema che molti hanno, quello di andare in biglietteria a chiedere e a perdere magari ore e ore per chiedere un rimborso. Molte volte in un mese purtroppo la tratta, anche quindi non a causa della neve, non è coperta, si è costretti ad andare in macchina, si può chiedere un rimborso? Questo problema dei pendolari che ritorna, Mario Finzi. Ha ragione questa nostra pendolare. Noi in questi casi cerchiamo di affrontare la cosa in modo generale piuttosto che costringere i singoli a cercare di farsi riconoscere dei rimborsi. In generale mi sembra la strada più ragionevole è quella, intanto, che le regioni, i comuni e lo Stato applicano le sanzioni alle aziende che non hanno dato il servizio che dovevano dare, e poi queste sanzioni vengano riversate agli abbonati dei servizi, magari come uno sconto nel mese successivo. Qui si tratta, diciamo, di quantificare gli importi dovuti, è una trattativa che anche noi Associazione dei Consumatori vorremmo condurre nei prossimi giorni con Ferrovie dello Stato, ma anche con le aziende del trasporto urbano, proprio perché in questo modo, diciamo, si dà un ristoro generale a tutti quanti gli abbonati senza costringere ciascuno di loro a prendere delle iniziative. Tra l'altro Rosanna scrive: i treni a volte vengono cancellati oppure non passano proprio oppure hanno ritardi di ora, insomma un'odissea per chi deve arrivare a Milano. Invece abbiamo un ascoltatore che ci ha chiamato, Roberto da Bologna, buongiorno, benvenuto. Buongiorno e grazie. Il mio tema non è tanto il rimborso, io abito fuori Bologna, ho fatto online il biglietto per andare a Roma delle 7:48 di venerdì, ci metto 45 minuti a raggiungere la città, parcheggio la macchina, arrivo in stazione e solo guardando il tabellone vengo a sapere che il treno è cancellato. Allora vado al servizio clienti Freccia Argento, mi faccio spostare il biglietto a lunedì alla stessa ora 7:48, mi presento questa mattina e purtroppo l'esito è stato identico. Cancellato, no, ma non solo, ma io in internet e anche al telefono ho cercato in tutti i modi di sapere per tempo, sì, che avrebbe evidentemente evitato di andare fino alla stazione. La cosa che però mi ha incuriosito è che la cancellazione del treno, da questo punto di vista, mi è stata spiegata al servizio clienti come un elemento di strategia dell'FS, diciamo così, cioè loro, ovviamente sapendo che ci sono dei problemi sulle linee, riducono i vagoni. Allora, un conto è un incidente, un fatto assolutamente occasionale, imprevedibile. Un conto è il fatto che tu pianifichi la riduzione, allora potresti anche, certo, per tempo farmelo sapere. Grazie Roberto. Sfortunato Roberto, però certamente il suo interrogativo, la sua questione è importante. Giovanni Ferrari. Sì, tra l'altro abbiamo la fortuna che le tecnologie attuali permetterebbero abbastanza facilmente di informare soprattutto persone come questo spettatore che ha acquistato in internet e quindi avrà fornito dei propri dati, una propria mail o un proprio numero di cellulare per ricevere poi il biglietto, per cui veramente poco ci vorrebbe in questi casi a finire il cerchio con l'informazione finale, che è quella se se partirà o non partirà il treno. Giustamente prima Mario Finzi ricordava quel servizio pronto treno che solitamente funziona abbastanza, che però lui diceva in questo caso ha funzionato male. Diciamo che è un'informazione intanto da dare a tutti, di sapere che c'è questo sito e anche un'applicazione per telefoni mobili per poter verificare il proprio treno, però resta il fatto che poco ci vorrebbe a quel punto anche da parte dell'azienda informare gli utenti. Certo, Mario Finzi, per quanto riguarda invece chi ha avuto interruzioni di energia elettrica, ci sono state alcune aree del paese che hanno avuto dei problemi molto gravi da questo punto di vista, si possono chiedere dei rimborsi, come ci si può muovere da utenti? Beh sì, ci sono stati 70.000 cittadini che sono rimasti senza energia elettrica in queste situazioni e la cosa è durata anche 2 o 3 giorni. Queste interruzioni, queste lunghe interruzioni sono disciplinate già dall'autorità dell'energia e del gas, c'è una delibera 198 del 2011 che precisa tutte, diciamo, le modalità. Ecco, ci si deve rivolgere naturalmente presentando un reclamo alla propria impresa di distribuzione, cioè al venditore il reclamo, e ci sono 40 giorni per presentarlo. Poi in realtà poi il pagamento avverrà attraverso il distributore, che è quello effettivamente responsabile della distribuzione. Sono però dei rimborsi, diciamo, automatici che non vengono misurati sul danno che l'utente ha subito. Penso per esempio al fatto che magari si è scongelato completamente il cibo in un congelatore o gli apparecchi sono andati si sono danneggiati, ecco. Ma quanto? Quindi se si deve quantificare un danno di questo genere diverso da quello automatico, sì, bisognerà necessariamente andare di fronte al giudice o andare in una sede di conciliazione, perché ci sono anche delle procedure di conciliazione che attraverso le associazioni dei consumatori si possono attivare nei confronti dell'azienda. In verità la mia impressione è che i rimborsi automatici siano in casi come questi del tutto insufficienti. Io spero, e ho già avuto qualche assicurazione in questo senso, che l'autorità per l'energia e il gas valuti in modo un po' più, diciamo, mirato questa situazione che si è creata. Soprattutto è chiaro che siamo di fronte a un caso di forza maggiore, ma i tempi di risposta delle aziende probabilmente sono stati molto più lunghi di quello certo che avrebbero dovuto essere. La devo interrompere, la ringrazio, come ringrazio Giovanni e Ferrari per essere state con noi, in regia Fabio Cantadori, in redazione Marco Lombardo. Grazie a tutti voi per l'ascolto, buona giornata da Valentina Furlanetto. Salvadanaio torna domani dopo il GR delle 12.